RadioTube Social Network. Eccoci insieme per la seconda ora di RadioTube. Abbiamo parlato di tantissimi argomenti nella prima ora, moltissimo di musica, ma non abbiamo finito. Abbiamo parlato di Eurovision. Questa sera Diodato rappresenterà l'Italia in questo Shine a Light, che è un omaggio ai 41 cantanti che avrebbero dovuto fare la finale di Eurovision questa sera. Abbiamo sentito anche la rappresentante italianissima di San Marino, che è Senit. C'è stato con noi Fabio Concato, era tanto tempo che volevo ospitarlo a RadioTube con questa sua canzone estremamente attuale, con a tema in milanese, dedicata all'Umarell, ai vecchietti. Ai vecchietti che guardano i cantieri, con grande dolcezza, con grande rispetto, con grande affetto. Bravissimo, bravissimo Fabio Concato. Abbiamo parlato di una serie di cui tutti stanno parlando, appena uscita la quarta stagione, che è Scam, e abbiamo appena parlato con l'autore di una biografia di Bono. Sono molto curiosa di andarmela a leggere, perché davvero questa vita, che è un romanzo, vale la pena scoprirla. Ma è il momento di introdurre il nostro co-conduttore, che purtroppo non può essere accanto a me. È tornato a RadioTube, ma chissà quando potremo, quando ci sarà la fase 3 della compresenza degli studi. Il ricongiungimento familiare. Ricongiungimento con Omar Schillaci. Ciao Omar. Ciao Marco. Allora, l'ultima volta, qui, io quando sto in diretta sto bene. L'ultima volta eravamo in un interregno professionale e quindi aspettavo di poterti riospitare presentandoti come vice direttore di Sky TG24, peraltro con deloga a spettacoli. Non ci sono le trombe? No, orca, le trombe non ce le ho. Che brutto gesto. Sai che? No. Fammi dire però, delega spettacoli a special projects, volevo dirlo in inglese. Omar, un mio vicino di casa, c'è un bimbo che sta imparando a suonare la tromba ed è il mio momento più divertente della quarantena. Questo sì, poche cose mi fanno ridere come... magari mi hanno ascoltato i genitori. Beh, però lo dico con affetto. Stai imparando. La tromba è difficilissima. Tutti gli ottoni, i fiati in realtà sì. Sono difficilissimi per i bambini più piccoli, ecco, quindi... Sì, sta imparando Jingle Bells. Vedi, si prepara al Natale, è bellissimo. Non sto è scherzando. Bellissimo. Non sto ma scherzando. Certo, ma il Natale è un attimo che comunque ci risvegliamo. È dietro l'angolo. E quando arriva. Allora, Omar, ti chiedo subito, poi parleremo anche un po' di Sky TG24 perché ci sono delle cose molto, molto gustose. Sei pronto a commentare con me i video della settimana? Tu vai, io ti seguo. Allora, cominciamo con un po' di commozione perché... Non posso che dire che il personaggio della settimana, per quanto è nei nostri cuori, è lui. Questo concerto parla proprio di muoversi. Muoversi, che poi è la radice della parola emozione. A lui piaceva camminare. Ora capisco che non porto acqua al mio mulino, ma anche a me piace camminare con la musica. Se c'è una cosa che ci insegna la musica è proprio che nel momento in cui ascolto non ho più paura. La scomparsa di Ezio Bosso, Omar Schillaci, un musicista, ma soprattutto un uomo che si è capito dalle reazioni sui social, dall'emozione che ha creato rivedere le sue immagini, ha lasciato un segno veramente profondo. Con una educazione, con una capacità di entrare ovunque in punta di piedi come uomo, ma prepotentemente poi invece con la sua musica, no? Perché la sua musica è veramente dirompente, la sua musica è la musica di cui lui si è sempre fatto portatore, la musica classica, da Beethoven a Mozart. È stato poche settimane fa ospite a Sky TG24, no? Aveva parlato del distanziamento sociale, aveva detto una parola bruttissima perché fa rima con isolamento sociale, e invece no, dobbiamo parlare di distanziamento di sicurezza, perché in realtà le persone non devono restare isolate, no? Perché l'isolamento è un qualcosa che poi porta le persone appunto a stare male. La musica invece, ed è uno dei suoi classici concetti, lui aveva parlato della musica che invece unisce, ha sempre parlato dell'orchestra, l'orchestra questo luogo dell'anima bellissimo in cui ognuno suona ma tutti insieme suonano qualcosa di diverso, ognuno suona una parte ma tutti insieme suonano una partitura, e questo, la sua capacità, secondo me poi la parola su cui lui ha sempre, una delle tante parole su cui lui ha sempre puntato, l'oltre, il guardare oltre, come uomo era capace di farlo, con la sua musica è stato capace di farlo. Davvero è difficile, perché io credo che chiunque, ascoltando la sua musica e sentendolo parlare, si sia sempre in qualche modo emozionato, ed è questo quello che lascia, che è tantissimo, ci ha davvero cambiato le prospettive e ci ha insegnato un modo diverso di vedere la vita, detto da parte mia e sono sicura da parte tua anche, senza alcuna retorica, è così, punto. Però adesso dobbiamo un po' tirare fuori un argomento spinoso, con un audio, con delle immagini che questa settimana hanno fatto molto discutere. Ora voglio solo stare tanto tempo con la mia famiglia e niente, sono felicissima dopo tanto tempo di essere tornata. Grazie. L'arrivo di Silvia Romano, le telecamere e poi anche gli assembramenti dei giornalisti alla ricerca di un frammento di audio e di video quando lei è tornata a casa. Lo so che chiederlo al vice direttore di Sky TG24 può essere, però bisogna un po' commentare quest'audio della settimana. Tu cosa pensi di queste immagini? Te lo dico anch'io, cosa ne ho pensato dell'arrivo di Silvia Romano? Ma fai riferimento più all'assembramento o fai riferimento intanto all'arrivo, al ritorno? Il primo pensiero che ho fatto, ti consegno questo, poi io credo che sia davvero, come sempre, ogni argomento abbia una sua complessità. Se in qualche modo ci chiedavamo se saremmo cambiati o se non saremmo rimasti quelli di sempre, secondo me il ritorno di Silvia Romano in Italia, la sua liberazione, ci ha un po' confermato che, insomma, un grande cambiamento, una grande metamorfosi non c'è stata. Oh, come sono d'accordo con te! Come sono d'accordo! E questo è, non so se dire che in parte spiacevole, perché forse ci eravamo illusi, no? Che quella solidarietà del balcone, che quella capacità di sentirsi tutti insieme, uniti nei confronti di un nemico comune, si sia sgretolata al ritorno di una ragazza liberata, una notizia che comunque doveva semplicemente far felici tutti, punto. Cioè, senza orpelli, senza il ma, no? Senza quel però che poi, come dire, in qualche modo dietro il quale poi si nasconde la verità del pensiero di ciascuno. Felice, punto, è tornata, siamo contenti. Questo è stato proprio il primissimo pensiero. E che poi in realtà Silvio Romano è stato un bagno, forse il primo grande bagno di ritorno alla, di, alla normalità, cioè il giornalista che cerca l'immagine, che cerca di strappare la battuta, è un ritorno alla normalità, perché fino all'altro ieri questa cosa non ci avrebbe minimamente stupito, no? Cioè, è quella che si chiama in gergo tonnara, cioè l'assalto. È quello che lo spettatore, l'ascoltatore, ma anche il lettore non vede al di là dell'immagine. È quello che succede. Era l'occasione forse per dire facciamo tutti un passo indietro fisicamente, non ce l'abbiamo fatta. Io ci spero sempre nel passo indietro non morale, fisico, per farsi meno male, perché ci si mena in quei momenti lì. E poi davvero, vabbè, speriamo che... Però voglio aggiungere una cosa, Marta, perché questo è stato il primissimo pensiero. Dopodiché però ho anche pensato che cedere alla faciloneria, per cui eravamo diventati tutti buoni fino a un mese e mezzo fa, e invece adesso siamo ritornati i caffoni di sempre. Ecco, non, credo che anche questo non sia vero. Okay. Io credo che ci siano state persone che sono state felici, giornalisti che sono stati rispettosi, persone che sono state rispettose nei giudizi nei confronti del ritorno di Silvia, e credo che ce ne siano altre che non lo sono state esattamente. È una questione di atteggiamenti, no? La fase 2 richiama molto agli atteggiamenti delle persone, no? Gli atteggiamenti che dobbiamo tenere per salvaguardare noi stessi e gli altri a livello sanitario. Io credo che alla fine la differenza la facciano sempre le persone, che le persone però non siano tutte uguali. Sono d'accordo con te. Prima di dare la linea alla viabilità, dico anche che la spettacolarizzazione di un evento del genere a me non piace, ma secondo me fa parte delle regole del gioco. È alla fine... succede, fa parte delle regole del gioco della politica, che utilizza un simbolo, fa parte delle regole del gioco. Allora, viabilità, e poi parleremo di telegiornali, perché c'è una cosa scottante, c'è una cosa scottante che mi avevi quasi nascosto, Omar, e dopo ne parliamo. Radio Tube Social Network. Ancora con Radio Tube Social Network, ancora con un co-conduttore d'eccezione che io sono contentissima di avere in diretta, Omar Schillaci, vice direttore di Sky TG24. Mi piace dirlo perché quando i colleghi che stimo, che fanno delle cose importanti, e io mi faccio bella con le penne altrui, oh, come sono orgogliosa. Parliamo un po'. Buona. No, è vero. Parliamo un po' di Sky TG24, perché questo periodo avete fatto una cosa fighissima. Eccola qua. Eccoci in diretta su Sky TG24, spazio è la seconda parte di Sky a casa, da casa mia in questo momento vi stiamo trasmettendo in diretta, siamo a casa ma non stiamo fermi perché stiamo e vi faremo fare un giro del mondo tra un attimo, anzi vogliamo vederle subito le nostre finestre aperte. Il telegiornale da casa, una cosa meravigliosa, secondo me è stata una grande idea. E ci tengo a sottolinearlo, ci tengo a sottolineare la bravura di tutti, della produzione, di tutta la nostra parte tecnica che molto spesso lavora nell'ombra, nella lungimiranza del direttore e poi nell'impegno di tutta la redazione. Nel senso che questa inizialmente era stata un'ipotesi che avevamo buttato lì in caso, come dire, di emergenza. Avevamo tutti dei piani B, esatto. Cosa fare nel caso in cui CD, esatto. Ecco. E in realtà a un certo punto abbiamo proprio voluto lanciare un messaggio, cioè anche noi siamo rimasti a casa, perché in realtà, come tutti, no? A un certo punto siamo rimasti tutti a casa, non siamo rimasti fermi, come diceva Fabio Vitale, e abbiamo pensato che fosse necessario mettersi davvero alla stessa altezza dell'ascoltatore, e abbiamo fatto qualcosa di completamente diverso. Questo è stato davvero, che noi sappiamo, il primo esperimento al mondo di un TG da casa, perché... Non siamo, uso un termine un po' tecnico, ma non siamo transitati da una regia a Sky, no, c'era a casa di un'altra persona che era il coordinatore, c'era un'intera regia montata, Intanto io sto guardando Roberta tutto... in regia da noi, che si sta immaginando la situazione. Esatto, immaginate tutta la vostra regia, l'abbiamo presa, l'abbiamo portata a casa di una persona e quindi noi abbiamo interamente trasmesso, quindi se fosse caduto il segnale da casa di queste due persone, andavamo a nero. Monoscopio. Il classico monoscopio, neanche le righe colorate di un tempo avremmo avuto, proprio... ci siamo presi questo rischio, in realtà assolutamente calcolato, perché abbiamo fatto prove su prove e quindi questo TG interamente pensato, prodotto, trasmesso, condotto interamente da casa, lo abbiamo portato avanti come esperimento. In realtà dico, siamo stati i primi, devo essere totalmente onesto e rendere onore a Maccio Capatonda, che una settimana prima di noi era partito col suo TG Casa Quarantena. Ecco, allora ecco cosa mi stavi, Maccio, ecco cosa mi stavi nascondendo. Vi aveva battuto Maccio Capatonda. Allora, Maccio ti faccio subito sentire questo pezzettino di Sky TG24. Allora, adesso un nostro inviato ci chiede la linea per una notizia molto importante dell'ultima ora. Sentiamo. Sì, buongiorno Stefania, io mi trovo come vedete nella cucina di casa mia per darvi una notizia piuttosto grave. I piatti del pranzo, come vedete alle mie spalle, non sono ancora stati lavati, contenevano resti di pasta alle zucchine con panna e cipolle, tra l'altro piuttosto buona. Io rimango qui comunque in attesa di aggiornamenti, cioè se mi viene voglia di fare sti piatti, e ti ridò la linea, grazie. E allora grazie a Maccio Capatonda, che avrete riconosciuto chiaramente. Beh, Stefania è stata bravissima, ha fatto proprio il lancio vero. Stefania è stata bravissima, impagabile Stefania. Avevo sentito Marcello Maccio qualche giorno prima e insomma gli avevo dovuto chiedere scusa per questo nostro modo che abbiamo avuto di comunicare il nostro Sky a casa come il primo TG da casa. Lui ha accettato le scuse, ha accettato di intervenire, a parte gli scherzi abbiamo creato questa cosa. Voglio tranquillizzare tutti, perché poi Maccio mi ha detto che ha lavato i piatti. Quindi okay, poi ha trovato la forza, ha trovato la voglia e entro sera li ha lavati. Questo è il vero giornalista che ci porta fino in fondo sulla notizia. Ma ascoltiamoci un pezzettino del TG di quarantena di Maccio Capatonda. Mi sono scordato il codice del Bancomat, il servizio di Fregili Sancisi. 8647284627786274. Questi alcuni tentativi sbagliati di ricordare il codice avvenuti questa mattina al Bancomat. Non me lo ricordo. Che fare. Il lungo periodo di quarantena passato prelevando raramente mi ha fatto dimenticare le cinque fatidiche cifre. E visto che il codice non è segnato da nessuna parte, adesso dovrò cervellarmi a dovere. Tutto sto trovando, tutte le cose che non ho mai trovato nella mia vita le sto trovando adesso, tranne il codice del Bancomat, ovviamente. Mi piace da morire l'intonazione da giornalista televisivo. Ce l'ha un po'. No, perché è perfetto, è perfetto. Cioè, ha quel pathos, quella sottile, come dire, vena di thriller, no? Che ti tiene lì e chissà che cosa ci racconterà. Io ho preferito l'inviato, diciamo, alla piantina del peperoncino, che ormai non ce l'ha fatta. Ho saputo il dramma da Maccio che c'è stato questo dramma in casa, e, però vabbè, insomma, che cosa dire di Marcello, è davvero geniale in queste cose qua. Sì, ci vuole un po' di autoironia anche nel rendersi conto che anche noi alla radio, quando leggiamo i servizi, siamo a volte siamo un po' così, un po' troppo. Omar, il TG a casa finisce quando, cioè, non è un esperimento che volete continuare? Perché secondo me invece, cioè, a me è piaciuto entrare nelle case dei conduttori. Guarda, è un esperimento che al momento abbiamo congelato e che stiamo riflettendo se riprenderlo e in quale modalità, nel senso che diciamo che abbiamo una serie di idee che potremmo sfruttare in alcune occasioni, cioè sempre cercando una contestualizzazione per cui può essere utile farlo da casa. Quindi prossimamente dovremmo, insomma, rivederlo riaggiornato. Ecco, mi piace l'idea. Poi c'è un ascoltatore che ci ha scritto un messaggio cattivissimo: fa schifo, io faccio schifo, senza un minimo di condanna quell'accalcamento di giornalisti e operatori TV. E cosa devo condannare? Stavano lavorando e quando cerchi la notizia ti ci butti. Certo, sarebbe stato bello che qualcuno dicesse: fermi ragazzi, tutti un passo indietro, perché non stiamo... Purtroppo quando si lavora succede anche questa cosa. A me non è piaciuto, perché poi noi giornalisti siamo andati avanti per settimane giustamente a ricordare le misure di sicurezza e i giornalisti in quel momento ci sono cascati. Ma cosa dire? Cosa, ma è chiaro, condanno, cioè, è chiaro, non so. È chiaro che quella ressa davanti al ritorno di Silvia, cioè, è un atteggiamento deprecabile, nel senso che siamo stati, come dicevi tu Marta, no, a ricordare tenete le distanze, c'è stata poi la darsena, no, al netto delle, come dire, degli studi prospettici che sono stati fatti sulla popolazione della darsena a Milano, è tutto vero. Ora si può dire, speriamo che la prossima volta questa cosa non capiti. Non so quanto questo possa essere utile, ma certamente se ciascuno di noi continuasse a ricordare che il distanziamento sociale, anzi, come diceva Stio Bosso, il distanziamento di sicurezza è fondamentale, è un bene per tutti. Sono d'accordo, sono d'accordo. C'è qualcuno che dice: ma davvero non vi accorgete che Maccio nel servizio giornalistico imita un preciso giornalista Rai? Sì, è un po' Salvo Sottile, eh? È un po' Salvo, sì. Sottile, però non è che non volevo nominarlo, è che poi ci sono delle parentele, quindi lì anche lì in Sky. Ma sì, ce ne sono tanti. Maccio lavora per stereotipi, no? Quindi ha stereotipizzato una modalità di fare informazione, che era quella che dicevi tu, no, Marti, leggere i titoli, del leggere il servizio. Sì, mi ricordo anche quando c'era Daniele Luttazzi che faceva "E la lira si impenna", sì. Che io ogni tanto "E la lira si impenna". Io ogni tanto me lo dico da sola quando faccio i titoli del giornale radio, a volte mi viene un titolo e tra me dico "E la lira si impenna", perché mi prendo in giro da sola. C'è questo. E poi bravo Maccio Capatonda, perché poche cose sono state divertenti nei video in rete, perché la creatività chiusa in quattro mura ha premiato quelli che le cose le stanno facendo bene. Ecco. Corretto, i giornalisti stavano lavorando, cosa dovevano fare? Perché i ristoratori che protestavano e sono stati multati di 400 euro, lo stesso bisognava fare con i giornalisti, perché il divieto di assembramento è prioritario, eccetera eccetera eccetera. Io dico la verità, non credo che siano stati assembrati così tutto il tempo, probabilmente appena è arrivata lei si sono precipitati, però è come i calciatori, appena arriva la palla si precipitano, quindi credo che sia stata una cosa abbastanza naturale e istintiva. Poi bisognava multarli, non lo so, magari bisognava multarli, non ho idea. Se ci fossero stati, io credo che se ci fossero state anche un servizio d'ordine o le forze dell'ordine in darsena sarebbe stato meglio. Certo. Se ci fossero stati il giorno in cui c'era la gente, non il giorno dopo quando non c'era naturalmente più nessuno. Il tema della multa, io, come dire, porto ancora con me una maggior rabbia per il fallimento dell'assistenza territoriale, dell'assistenza di primo soccorso durante la pandemia e durante il dramma che abbiamo vissuto, che è molto più forte in me rispetto a quella scena, no? Assembramento al ritorno di Silvia Romano, che non vuol dire che andasse bene, lo ribadisco, dico semplicemente che in questo momento, se devo proprio scegliere qualcosa su cui arrabbiarmi o qualcosa che urta molto di più la mia sensibilità, ha urtato molto di più quella disorganizzazione dentro il quale improvvisamente siamo piombati, rispetto a quella scena sicuramente deprecabile, che ci auguriamo tutti che, come dire, al prossimo giro possa essere più responsabile. Sì, tra l'altro mi sono resa conto, parlando, che ho detto una scemenza, non era Luttazzi ma era Carcarlo Pravettoni, Carcarlo Pravettoni di Paolo Hendel. Luttazzi invece era l'università di Paolo Alto, era l'università con la Jalappas. Abbiamo una formazione giornalistica molto molto molto solida, ma in realtà abbiamo studiato anche seriamente, ma anche questo fa parte della nostra formazione. Omar, tra poco parliamo di musica, perché essendo tu vice direttore di Sky TG24 con la delega agli spettacoli, e ti devo chiedere un po' di cose anche di spettacoli. Tra pochissimo, pausa, poi saremo ancora insieme. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme, stavamo parlando di Carcarlo Pravettoni, del professor Fontecedro, un po' di tabloid con Daniele Luttazzi. Oh, che momento di ricordi! La nostra seconda ora di Radio Tube con il co-conduttore d'eccezione Omar Schillaci. Eccoci, Omar. Eccoci qua. Allora, come siete indulgenti con i cronisti, chiamarli giornalisti è troppo. Allora, intanto cronista non è una diminuzio, è un giornalista che si occupa di cronaca, e anzi la cronaca è la base. Un bravo cronista può fare tutto, uno che non è un bravo cronista difficilmente può fare di tutto. E poi, ragazzi, è veramente come quando sta arrivando la palla, il giornalista, il calciatore corre. Sì, in quel momento qualcuno avrebbe dovuto urlare, forse l'ha fatto, mantenete le distanze. Ma quando c'hai la notizia, corri a prenderla. Purtroppo è stato così. Io non è che sono indulgente, spiego secondo me cosa è successo e poi andiamoli a multare. Però è successo, di fatto è successo. Omar, che devo dire? Sono tutti arrabbiati, mi stanno dicendo che sono troppo buona. Ma secondo me, sinceramente, Marco, è giusta anche la rabbia delle persone, cioè nel senso non c'è nessuna voglia di giustificazione. È successo quello che hai detto tu, per chi naturalmente questa cosa l'ha vissuta come noi in tante occasioni, è proprio quello, cioè c'è la notizia e tu vai verso la notizia. A quel punto il distanziamento di sicurezza è stato completamente bypassato da una notizia e dal ritorno felice per tutti di Silvia Romano. Certo, certo. Possiamo condannarlo, cioè possiamo condannarlo. Ma l'abbiamo già detto. Beh sì, però semplicemente stiamo spiegando cosa è successo, non è che possiamo fare di più. Non possiamo fare più di questo. Hai la delega agli spettacoli, hai la responsabilità di una parte nuova nel sito di Sky TG24 tutta sugli spettacoli, quindi ti faccio la domanda del momento: ma secondo te, Omar, in quest'estate così particolare, ci sarà il tormentone estivo? Secondo me no. Cioè, è possibile che non ci sia. Parlando con alcuni musicisti, mi dicevano: guarda, è stata proprio una casualità, perché ho parlato con due o tre musicisti in questi ultimi giorni e tutti mi dicevano un po': sai, sì, rispetto a quest'estate dobbiamo vedere che estate vivremo, perché cosa tiro fuori il pezzone estivo se poi l'estate i lombardi la devono passare a Lecco, che per carità. Che per carità, no, cioè, io sì, vengo da lì, Lecco, cioè sono di origine di lì, è bellissima, quindi... Ma se uno si immagina coi capelli al vento su una ritmo cabriolet lungo la costiera amalfitana ad ascoltare il classico pezzone estivo, ecco, forse in un uggioso pomeriggio ad agosto a Lecco, magari con un filo di pioggia che già inizia a arrivare perché i monti sono vicini, non è proprio la stessa cosa, ecco. Quindi i musicisti sono tutti un po' lì sul chi va là, cioè lo facciamo, vediamo come va. Secondo me, se potremmo, se a un certo punto ci sarà ok le vacanze, seppur con tutte le distanze di sicurezza da tenere, con tutti gli atteggiamenti giusti da praticare, se quest'estate potremmo andare in vacanza e andremo in vacanza, secondo me la hit estiva uscirà. Prima che adesso facciamo arrabbiare qualcuno, Lecco bellissima e io sono cresciuta per tutte le mie vacanze dell'infanzia sul lago di Como e sono per metà originaria del lago di Como, quindi nessuno si offenda. Stavo ridendo. Voglio, allora io invece no, ora voglio sapere. Sì. Quali delle persone che ci ascoltano, tra andare, adesso dico una meta a caso, tra andare a Capalbio, al mare, quest'estate, preferirebbero fare tutta l'estate ad agosto a Lecco? Ragazzi, a Lecco c'è il lago, è bellissima, eh. Ma c'è, beh, infatti, ma ci sono anche i monti vicino, è anche un posto bello. Ma io magari me ne sto a Lecco, non vi dico il paese esatto, perché so, un po' di privacy. L'ho già trovato. Omar, allora ti manderò un bel messaggio, spero di poterti mandare un bel messaggio da... una spiaggia. Non dirlo. Esatto, ci sono, questo stanno scrivendo le montagne, infatti ragazzi, non. Allora, prima di parlare di musica, fammi leggere un altro messaggio. Ma di quale notizia parlate? Non c'era alcuna novità, lo sapevano prima che non avrebbe rilasciato dichiarazioni. Sì, però il giornalista non se ne può andare. Il giornalista, non c'è rispetto, non fa onore al giornalismo, questi non sono giornalisti, non sanno cos'è il giornalismo. Il giornalista non se ne va, non se ne può andare, anche se sai che non succederà nulla, tu devi stare lì, il giornalista non se ne va. Io su queste cose sono abbastanza, mi accaloro, però il giornalista non se ne deve, il cronista deve essere lì. Marta, ti rubo un minuto, imparagonabile naturalmente, perché continuo a comprendere la rabbia delle persone, e assolutamente, Marta, il giornalista non va via, né un giornalista esperto, né un giornalista alle prime armi, che anzi deve restare lì anche a notte fonda. Sì. Ma un po' di anni fa, parecchi anni fa, non voglio neanche più dire quando, arrivò a Milano un oggetto del mistero, questo giocatore, io lavoravo a Sky Sport a quei tempi, un giocatore, Pato, un ragazzino, aveva 15 anni, 16 anni, era minorenne quando il Milan lo acquistò, ma lo acquistò per una cifra, per un ragazzino, no? Per un minorenne, davvero mostruosa in quel momento, e quindi come capitava sempre d'estate all'arrivo dei calciatori, andai col mio operatore a Malpensa a prenderlo. Non ho, Marta, ma mai avevo visto una folla così per un giocatore di calcio che arrivava, ok? Ma una roba disastrosa. Quindi dissi al mio operatore, guarda, facciamo così, spostiamoci più verso l'uscita, perché avevo visto dove era il furgone del Milan, ok? Lasciamo quella calca, prendiamoci il rischio che lui parli e che noi ci si perda quelle battute, perché poi il giornalista è lì per quello, no? Certo. Per prendere le prime parole, nel caso del giornalista sportivo, le prime parole di Pato o di qualunque calciatore che arriva e sbarca in Italia. Quindi prendiamoci questo rischio, ma proviamo a seguirlo per farlo dopo magari da soli. Insomma, lo facciamo, Pato effettivamente arriva, non parla con nessuno, si crea un disastro, cioè parlo davvero proprio centinaia di persone tra giornalisti e operatori. E io dico all'operatore, bene, andiamo, cioè seguiamolo, tieni accesa la camera, io guido e seguiamolo e cerchiamo di andarlo a prendere. Malpensa, Milanello è molto vicino a Malpensa, io pensavo che andasse a Milanello. Dopodiché vediamo che non va a Milanello e prende la tangenziale di Milano, allora dico andranno a Milano, dopodiché fa tutta la tangenziale, esce dalla tangenziale e prende l'autostrada, dico ormai siamo qui, continuiamo a seguirlo. Insomma, arrivò a Forte dei Marmi, dove Gagliani, che in quel momento dirigeva le operazioni del Milan, aveva e ha tuttora la casa, e quindi lo abbiamo alla fine seguito, ci siamo fermati con lui all'autogrill ed è venuto fuori un racconto particolare. Ecco, secondo me il giornalista prova a fare questo. Sì, okay? Sì, sì. E appunto, anche all'ascoltatore che in questo momento scrive, deve star lì per sapere cosa, se è incinta, se lo Stato ha pagato il riscatto, informazione sulla conversione all'Islam, questo è gossip. No, semplicemente, nel caso in cui lei fosse uscita, avesse detto qualcosa, qualsiasi cosa, e c'era un giornalista, quello che era tornato a casa non ha fatto il suo mestiere. Possiamo fare un riassunto. Si può chiosare così. Ecco. Ecco, dai, parliamo di musica, perché tu hai detto che forse quest'anno non ci sono i tormentoni. Allora facciamo una cosa, prepariamo subito il video, Roby, perché qua il tormentone lo costruiamo così. L'estate ormai alle porte e per la prima volta da un sacco di anni ormai, grazie alla pandemia mondiale, forse riusciamo a scampare i vari passito passito, mi sintura sintura e via dicendo. Le case discografiche si cagano addosso in questo momento perché nessuno è disposto a rischiare. Quali hit delle estati precedenti sarebbero potuti diventare un tormentone al giorno d'oggi? Cercavo un mare calmo, trovato te. Sì, quest'anno il mare lo vedi con una barriera di plexiglass. Non sappiamo una minchietta di quest'estate. Come scrivi una hit nel 2020 con questi vincoli? E a rovinare questa atmosfera di pace arriviamo noi. Ah, arriviamo noi, perché stiamo per sentire come si costruisce un tormentone. Vi chiedo ancora un po' di pazienza, lo chiedo soprattutto al nostro ospite di cui avete appena sentito la voce, di abilità, e poi scopriamo come si costruisce da zero un tormentone. Radio Tube Social Network. Musica. Allora, se tanto quest'estate non ci sono regole, vale tutto, cominciamo a riportare subito il nostro rullante sul 2 e sul 4, fottendo il reggaeton nel di dietro. Tuttavia non è che possiamo sovvertire ogni regola dei tormentoni. Vale a dire, non è che adesso io ci posso mettere dei chitarroni alla Slayer. Possiamo inserirlo un riff di chitarra, certo, ma deve essere orecchiabile, immediato, tremendamente ripetitivo. Massimo 4 accordi. E visto che io sono senza talento, me ne basteranno 3. Testo. Come abbiamo detto prima, nessuno sa nulla di ciò che succederà quest'estate. Mi sento solo di poter pronosticare che non ci saranno grandi assembramenti di persone, quindi niente everybody, puccio Renz in the air e robe di questo tipo. E allora per una volta scriviamo una canzone su tutte quelle attività solitarie che gli psicopatici asociali come me prediligono. Ritornello, la parte più importante della canzone. Come al solito dobbiamo riassumere il nostro concetto in pochissime parole. Per essere rilevanti dobbiamo sicuramente inserire la parola estate. Sarà un'estate da casa, quindi sarà un'estate... un'estate fancazzista. Eccola qui, creo un'orribile hit estiva. Nel 2020, 328.145 visualizzazioni di questo video per ora, ma è stato pubblicato da pochissimo fa. Milioni, milioni, io sono pazza di lui. Mark the Hammer, benvenuto Marco, Marco Arata, ciao Marco. Ciao, grazie mille. Grazie Marco, mille. Io sono pazza di tutti i tuoi video. Allora, guarda, io sono proprio... Adesso non vorrei che partisse l'audio dell'iPad, no? Perché voglio andare a vedere, per spiegare un po'. Crea un'orribile hit estiva, vabbè, ma poi tu fai modifico le canzoni. Come creare una canzone dubstep senza alcun talento? Come creare una canzone trap senza alcun talento? Come creare una canzone reggaeton, black metal, pop rock, indie, gli inni di partito? Fai tutto a tavolino. Assolutamente sì. Assolutamente sì, anche se mi piace, la cosa in particolare mi piace quando fai anche i testi a tavolino. Come ti è venuta questa idea, Marco? Tu sei un chitarrista, hai una vita da musicista indipendente da YouTube, suoni con J-Ax, tra l'altro, vero? Esattamente, sì sì, sono chitarrista. Ecco, esatto. quindi un musicista, vero. Però ti diverti a costruire queste hit su misura su YouTube. Esattamente, sì, mi diverte molto fare queste cose perché, vabbè, credo che si sia capito che al di là della musica la mia più grande passione è la recitazione, e quindi adoro scrivere copioni, adoro comunque scrivere un qualche cosa di ironico che, insomma, credo che sia chiaro a tutti, poi alla fine è una farsa perché mi diverte sempre distruggere il genere musicale in questione, qualsiasi esso sia, e quindi comprende anche ovviamente in tantissimi casi musica che in realtà mi piace. Però ovviamente è sempre una recita, è sempre tutto molto distruttivo per il gusto di farlo, perché certo, spero che possa far ridere. Qualcuno si è offeso perché a volte tu fai le canzoni di dei Maneskin, di Ligabue, sto guardando così un po' a caso i titoli. Qualcuno si è mai offeso quando hai fatto una canzone così su misura? Ma allora, paradossalmente è successo più volte quando trattavo un genere musicale rispetto all'artista, cioè ti spiego, magari quando parli del genere X, faccio per dire il genere metal, che tra l'altro non è neanche vero, però per dire, fare del genere metal, alcuni metallari dicono vabbè, ma lo stai stereotipando. Certo che lo sto stereotipando, per far ridere tutto lì, mi piace anche. Mentre al contrario, quando chiamo in causa l'artista, diciamo, di riferimento per uno spot così, in realtà nella totalità dei casi finora o non ho ricevuto risposta, ma invece quando ho ricevuto risposta si sono fatti delle grasse risate. Infatti, già, giusto per dire, comunque i Maneskin stessi li ho conosciuti dopo credo un paio di mesi nel di non mi ricordo quale festival, dove suonavo appunto con J-Ax, e ti garantisco che non c'era assolutamente un clima né di tensione né freddo, anzi. No, ma anche perché lo sono prese in giro bonarie. Oh, ma che ne pensi di questi? Io lo adoro, trovo che sia divertentissimo. Un po' il gioco di destrutturare certi meccanismi, prenderli un po' in giro, mi piace molto. Sì, allora, detto che poi molto spesso ci sono i testive che sono più o meno costruite a tavolino, ora naturalmente con la speranza non di far ridere ma di vendere, ma non siamo qualche volta così tanto distanti dalla realtà in quello che è il tentativo di Marco, ma certo, cioè l'ironia, Eli e le storie tese, che sono tutti grandissimi musicisti, hanno giocato in tutta la loro carriera con stereotipi di generi musicali, no? Quindi in realtà poi appunto c'è un copione per quello che riguarda Marco, c'è una costruzione che punta naturalmente a fare show attorno a questa cosa, e mi sembra che sia perfettamente riuscito. Ecco, non mi sorprende che i metallari se la prendano. Neanche a me. Se la prendono sempre. Neanche a me. Marco, è arrivato un messaggio al 349-238-6666. Grande Mark, promuove l'arte, condanna il mercato musicale a scopo di lucro. Che ne pensi? Cioè, guarda che soprattutto. Beh, uno dice, però io faccio il musicista. Dovrebbe essere, però, esattamente. Io faccio il musicista, c'ho anche il mutuo da pagare, risponderà. Vabbè, dai, cosa ne pensi? Ma diciamo che fa abbastanza ridere questa cosa, perché mi piacerebbe farvi vedere l'entità di quello che, diciamo, sono gli assegni su YouTube. Credo che se questo fosse lo scopo non avrei fatto un qualche cosa. No, dice che tu distrugge il genere. Che tu, esatto. Cioè, che tu condanni quelli che usano la musica a scopo di lucro, cioè che tu invece cioè che sei una sorta di Robin Hood. Esatto, un Robin Hood della musica. Rubi l'arte darla ai poveri. No, assolutamente no, sono solo un comico che utilizza la musica come mezzo per far ridere, niente di più, anche perché poi al di là dello stereotipo, che a volte è veramente posto all'esasperazione proprio per creare uno stereotipo che possa essere più divertente, in realtà nella quasi totalità dei casi dei generi musicali e soprattutto degli artisti a cui io faccio riferimento serve un grandissimo talento per costruire delle canzoni. Diciamo che è facile fare dell'ironia su determinati argomenti, perché insomma ci sono tantissime ragioni che sono proprio quelle che mettono in video, però in realtà è molto molto più complessa di così. Il gioco sta esattamente, si fonda proprio su questa cosa qui. Beh, anche perché bisogna conoscere i meccanismi per poter fare un po' di ironia. Ancora messaggi. A quando Covid permettendo concerti live suoi? È il numero uno assoluto, Mark. Qua si stanno scatenando tutti i tuoi fan. Beh, sono lusingatissimo di questa cosa. Allora, intanto la domanda generale sarebbe quando possiamo riprendere con i concerti. Mi piacerebbe tantissimo avere una risposta sia per voi che per me, ovviamente, perché è chiaro che il mio core business è proprio incentrato sulla musica dal vivo. Detto questo, una volta che tutti quanti saremo un pochino più al sicuro, è certamente un qualche cosa che è in programma, anche se non posso ancora definire nessun tipo di data, neanche vagamente. Che meraviglia. Ancora un messaggio. Amo gli Iron Maiden, ma ho ancora le lacrime agli occhi per la parodia fatta da Mark the Hammer. Quindi un fan degli Iron Maiden non si è arrabbiato. Quindi sono. Andateli a vedere i video di Marco Arata, Mark the Hammer. Lo trovate con entrambi i nomi su YouTube. Perché sul serio, poi molte canzoni, soprattutto certi reggaeton, non li ascolterete più nello stesso modo, perché capirete che sotto che c'è il trucchetto. Marco, davvero grazie tantissime, davvero, e staremo a vedere se sto tormentone arriva se quest'estate fancazzista che ci hai suggerito darà luogo a qualche tormentone estivo. Grazie Marco, a presto. Grazie a voi, a presto. Ciao. Grazie, ciao Marco. Ragazzi, no, andateli a vedere, sono veramente divertenti. A me era piaciuto come costruire appunto l'inno politico, è fantastico. La canzone per andare a Sanremo, la canzone indie, tutti gli ingredienti perfetti per costruire una hit. A proposito di ironia e autoironia, questa settimana quando ho visto questo video ho detto sono io. Cioè veramente il video che ha raccontato la mia quarantena senza conoscermi, perché il milanese imbruttito ha fatto l'imbruttita in quarantena. Guarda, Omar, sono io, te ne faccio sentire un pezzettino. Sono già le 9? L'imbruttita, quando si sveglia, si lamenta perché ha già 5 call organizzate. Figa, si lavora molto di più adesso in smart working che prima, cioè... L'imbruttita ha l'appuntamento mattutino di fitness. Ora però non si chiamano più esercizi ma workout e conosce perfettamente la terminologia inglese. 2 minuti di burpees, 100 sit-ups, 50 push-ups, no rest. Se non è riuscita a truccarsi e sistemarsi, durante le call di lavoro finge di avere problemi di connessione. No, facciamo così, sposto il computer. Oggi ho il wifi che va e non va. È strano perché appunto prima andava e adesso non va. Non capisco perché. È un problema farlo senza video? L'imbruttita si lamenta ad inizio quarantena per la chiusura di parrucchiere e estetista, ma ora non più. Ormai potrei tranquillamente gestire un tong-tong. Anzi, già che ci sono potrei aprire un'attività tutta mia. Ma poi cambia idea. Sì, ecco, magari il 2021. Anche perché, insomma, una merda. L'imbruttita non ha mai cucinato in vita sua, ma ora macina piatti a nastro. Ma come facevo prima a sopravvivere? Io comunque dopo sta quarantena continuo a cucinare. Ma poi cambia idea. Anche se un delivery ogni tanto. Pizzette sono buone, però. Che due coglioni, Sono io, uguale. C'è Roberta Frisani in regia che ride, perché secondo me anche lei da tarantina si è trasformata in milanese imbruttita. È un po' sì. Bravissimi, Omar, sono veramente bravi quelli del milanese. E comunque è così, il milanese, categoria di cui io faccio parte, nonostante il cognome, il milanese, esatto, si sveglia e si lamenta. Ed effettivamente la frase classica è: si lavora molto di più in smart working di prima. Quindi questa cosa qua è proprio un must. Sì, io tutti i giorni mi lamento di questa cosa, pazzesco. Quindi... un po' di autoironia, mi ci sono rivista. Omar, devo ringraziarti tantissimo per essere stato con noi, anche se a distanza, ma io confido, ce la faremo e faremo una trasmissione in studio insieme al più presto. Grazie appena, davvero Omar Schillaci. Dai, grazie, appena potremo. Un abbraccio grande, grazie Omar. Grazie a tutti. Grazie mille Omar. Grazie. Devo ringraziare tantissimo Alessandro Schirano che mi ha aiutato a confezionare la trasmissione da lontano, da remoto. Edoardo Lavezzari che è qui, che è lì che fa ciao col guantino, che ha seguito l'assistenza in regia. Roberta Frisani e le piante che deve comprare per abbellire la casa in regia. Ormai milanesi imbruttite, ci ritroviamo la prossima settimana con Radio Tube.